I want. For my crystal 7/8 I want. For my crystal 7/8 I want. For my crystal 7/8 I want. I want. I want. For my crystal 7/8 I want. For my crystal 7/8 I want. For my crystal 7/8 I want. For my crystal 7/8 I want. Fumavamo solo erba opaca, chiusi dentro qualche baracca, dentro quella panna la capa. Fumo questa se Venezia, yeah. Occhi filippini palawan, la sua pussy stretta a Panama, tutta naturale canapa. Fumo questa se Venezia, yeah. Che se in Italia, in Olanda, sia in Spagna, volo l'Italia, già amore si schianta. La mia medaglia, il valore una canna. Agua, fumo questa se Venezia, yeah. Oggi smoke it, no fake. Non mi fotte di te, però mi fotte di lei. Amo l'erba fra, lo sai, l'ho sempre venerata. Questo pezzo è solamente un'altra serenata. Ho sempre questa tosse velata. Fumo come se non fosse vietata. I want, I want. Fumo questa 7/8 hour. Fumo questa 7/8 hour. Fumo questa 7/8 hour. I want, I want. Fumo questa 7/8 hour. Fumo questa 7/8 hour. Fumo questa 7/8 hour. 7/8 smoking all day. 7/8 smoking all day. I want, I want. Fumo questa 7/8 hour. Fumo questa 7/8 hour. Fumo questa 7/8 hour. Frate, me ne vado a Barça. Fumo gli ane come Tarzan. Tarzan. Me ne vado al Terps. Bella, no, no, carer della Junta de Comercio. Fumo questa 7/8 hour. Pure i ninci cazzi che paglia. Carne grandi sedi che taglia. Senza con gli amanti che abbaglia. Tipo il miele della pemaglia. Fumo questa 7/8. Bevo 7-Up dallo zaino della 7A. Quello degli SPAC, sempre con le tasche piene, ma peggio dell'Iraq. Muove liscio tipo telepass. Quando vieni qua. I want, I want. Fumo questa 7/8 hour. Fumo questa 7/8 hour. Fumo questa 7/8 hour. I want, I want. Fumo questa 7/8 hour. Fumo questa 7/8 hour. Fumo questa 7/8 hour. 7/8 smoking all day.